Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Anna Mittone, autrice di Quasi quasi mi innamoro, pubblicato da PM. Partiamo dalla protagonista di questo romanzo, Consolata. Chi è Consolata? Consolata è una donna che ha quasi 40 anni e non è affatto felice, non ha un bilancio positivo della sua vita, non è riuscita, nonostante i suoi sforzi, a costruirsi una carriera professionale, non è riuscita a costruirsi una vita sentimentale, non è neanche tanto riuscita a costruirsi un giro d'amici figo con cui sopperire alle precedenti mancanze, e quindi in realtà quello che ha è pochissimo: ha un caro amico, collega della libreria in cui fa la commessa, e soprattutto una famiglia molto invadente, con una madre soprattutto molto molto presente. E in questa specie di vuoto in cui si muove, a un certo punto decide di cambiare qualcosa, decide che deve dare una svolta, ma siccome dare una svolta nella realtà non è semplicissimo, dà una svolta nel sogno e si innamora di un cantante che vede su una rivista. E adesso ci arriviamo, ma prima di arrivare a questo innamoramento particolare, possiamo dire che Consolata rappresenta un po' la situazione di molte donne di oggi, insomma, che arrivano quasi a 40 anni, hanno una vita sentimentale un po' sregolata e non sono pienamente soddisfatte, fanno un lavoro per il quale magari non hanno studiato. Sì, esattamente, lo penso io, ma poi devo dire tutte le lettrici mi hanno confermato che in effetti succede a molte, purtroppo, soprattutto professionalmente, perché nella vita sentimentale uno può dire vabbè, c'entra un po' la fortuna, gli incontri, ma nella vita professionale, se uno ha studiato, si è preso una laurea e si è impegnato e ha coltivato un sogno, una passione, poi non riuscire a metterla in pratica, a viverla e a vivere di quello, è molto pesante, viene vissuto come un grosso fallimento. E quindi il fallimento sentimentale classico, quello alla Bridget Jones, che però lavora in una radio prima, in una casa editrice, in una televisione, fa tutti i lavori molto fighi. Il fallimento sentimentale, quando si accompagna al fallimento professionale, diventa molto faticoso. Perché Consolata è una ragazza, insomma, una donna che si è laureata, ma poi ha messo un po' da parte questa sua laurea. Sì, si è laureata e poi non è riuscita a, come dire, vivere e rivendersi questa sua laurea e la sua passione in altro modo che facendo la commessa in una libreria, che è un lavoro degnissimo, figuriamoci, però avrebbe voluto fare qualcosa di più, avrebbe voluto esprimersi e vivere in un altro modo, e quindi per lei questa è una grossa fatica. Prima si citava Bridget Jones, che è un po' la regina della cosiddetta chick lit, la letteratura per pollastrelle viene tradotta in italiano, insomma un po' tutto quel filone appunto alla Bridget Jones. Questo è un libro che rientra nella chick lit o no? Questo non lo posso dire io. Cioè, io sono partita con l'idea di un ciclista, sono sicuramente partita da lì, poi mi ha un po' preso la mano, nel senso che poi è diventato un po' più melanconico e un po' più crepuscolare di un vero e proprio ciclista, anche perché avendo come tema un amore immaginario, non un amore reale, chiaramente un amore immaginario non sempre può avere un finale esaltante, quindi comunque un amore immaginario non si traduce in una realtà appagante del tutto, però sicuramente è un modo per ricominciare anche quello. La vita sentimentale di Consolata è piuttosto tribolata, un ex fidanzato che l'ha combinata veramente grossa. Sì, praticamente un giorno l'ha fatta sedere e le ha detto: io aspetto un figlio. Lei ha detto: sì, ma io non sono incinta. Le ha detto: sì, ma infatti non da te. E quindi se n'è andato e ha fatto un figlio con un'altra donna, e lei ha sperato sempre di rincontrarlo, come spesso accade nei sogni che facciamo noi donne, almeno io faccio, di rincontrarlo bellissima, attorniata da uomini, potergli dire vattene, vedi quanto hai perso. Invece lo rincontra una domenica piovosa in cui lei non ha neanche l'ombrello e lui invece sta con la carrozzina, fidanzata, tutto felice, e lei lì proprio dice: oddio, che ho fatto, che mi è successo. Lei si è ispirata un po' alla vita vera delle quasi quarantenne di oggi per descrivere un po' questo personaggio? Beh, sì, sicuramente sì, non tanto alla mia, perché io ho fatto due figli con due uomini diversi. Lei fa parte, diciamo, delle fortunate, insomma. Sì, mi sono data anche troppo. Però sì, un po' quella di amica, un po' quella che vedo in giro. Soprattutto, ecco, rispetto a Bridget Jones e alla chick lit classica, ho cercato di togliere un po' tutta quell'allure di glamour che comunque queste donne hanno, no? Amici con cui escono la sera, situazioni, feste. In realtà nella vita che io conosco e delle mie amiche non è che una c'ha una festa ogni sabato sera. Sono più sabato sera che stai a casa a vedere c'è posta per te, quindi che il resto. Esatto. E veniamo a questo amore immaginario, perché Consolata si innamora niente poco di meno che di Morgan. Sì, esatto, di Morgan. Come mai? Ma perché io sono partita dall'idea dell'amore immaginario, poi non sapevo chi, cercavo qualcuno, e ho escluso subito le star internazionali, perché chiaramente sono, diciamo, io stessa, Brad Pitt, George Clooney, chiaramente ho sognato mille volte di incontrarli, separarli dalle rispettive fidanzate, vivere con loro. Vabbè, felice. Lo pensiamo un po' tutte, esatto, insomma. Però sono troppo distanti, cercavo qualcuno di più vicino e quindi ho iniziato a guardarmi intorno. All'inizio pensavo a Saviano, perché lei fa la commessa, lui comunque è un bell'uomo, io almeno lo trovo un bell'uomo. Poi però chiaramente è diventato una specie di eroe civile, diventava un po' di cattivo gusto scherzare su un amore con lui. Poi ero lì che un po' giravo a vuoto, una sera accendo la televisione, una mia amica mi dice: ma non lo vedi mai X Factor? Dico: ma no, ma che è? Ma guardo. Ho visto Morgan, è stata una folgorazione, ho detto: lui, è assolutamente lui. Ma in genere, insomma, sono le ragazzine ad innamorarsi dei personaggi famosi. Lei invece è una quasi quarantenne. Sì, io anche. Perché infatti molto del libro e del racconto della protagonista gira intorno a questa adolescenza, a una post-adolescenza, un'adolescenza non vissuta che lei recupera in qualche modo, perché quello che c'è di bello nell'adolescenza, insieme a tutte quelle cose orribili che tutti vorremmo dimenticare, tipo che siamo brutti e nessuno ci ama, quello che c'è di bello è che la vita è piena di possibilità, che tutto è ancora possibile, tutto può essere, e questa cosa si perde con gli anni, inesorabilmente. Allora lei ritrova questa possibilità di vita ritornando un po' adolescente, quindi sì, innamorandosi del cantante famoso. Ma poi lei ha avuto modo di parlare con Morgan di questa cosa? Sì, io l'ho incontrato, io non l'ho mai voluto conoscere mentre scrivevo il libro, perché non volevo perdere la distanza che aveva la mia protagonista. Poi l'ho incontrato a settembre, una sera a cena, ed è stato, devo dire, all'altezza delle aspettative di Consolata. Consolata, a proposito anche di vita affettiva, a questo caro amico, insomma, che è sempre, sempre presente. Quando però il caro amico si fidanza, insomma, trova una donna, lei va ancora più in crisi. Sì. Beh, sì, questo è, diciamo, un dato un po' autobiografico. In realtà il mio caro amico a cui era ispirato il personaggio non se n'è neanche accorto, però era ispirato a questo mio carissimo amico e collega, che a un certo punto si è fidanzato e inesorabilmente ci siamo persi, perché è così, per quanto uno ci provi, quando poi si innamora dedica meno tempo agli amici, e quindi quelli che sono rimasti indietro si sentono abbandonati, un po' come se ti lasciasse un fidanzato. Lei è una sceneggiatrice, insomma, come lavoro principale questo è il primo romanzo. Sì. Sceneggiatrice di La Squadra, Elisa di Rivombrosa, Distretto di Polizia, insomma tutte fiction di una certa importanza. Come mai ha deciso di scrivere un libro? Allora, inizialmente per un fatto proprio tecnico, nel senso che mi sono trovata dopo anni di lavoro molto intenso in un momento di stanca, anche il mio campo, come tanti, attraverso un momento di crisi, quindi mi sono trovata improvvisamente con del tempo per me. Allora ho detto: come uso questo tempo? Anch'io ho i miei sogni, ho sempre sognato di scrivere un romanzo, e quindi ho detto: adesso ci provo. Poi è andata bene. E che differenza c'è fra lo scrivere una sceneggiatura e lo scrivere invece un romanzo? Beh, è completamente diverso. La sceneggiatura è una scrittura a servizio, è una scrittura che serve al regista, agli attori, a chi metterà in scena il film, mentre il romanzo è una scrittura che si chiude in sé, quindi chi legge il romanzo in quelle parole ha tutto, la colonna sonora, le luci, i costumi e tutto quanto, e quindi è molto più appagante per me, almeno. Perché ha scelto la storia di Consolata per scrivere il suo primo libro? Perché proprio questa storia? Perché l'amore immaginario è qualcosa che mi ha accompagnata sempre, in molti momenti difficili della mia vita è stato il mio rifugio, e quindi mi sembrava fosse un argomento che poteva interessare molte, di cui non si era ancora scritto. Ho detto: ma se è successo a me, magari è successo anche ad altre, allora perché non raccontarlo? E come mai questo nome Consolata, un nome insolito per una protagonista di un libro? Perché io sono torinese, a Torino non moltissimi lo sanno, se non i torinesi, c'è un santuario della Consolata che sta in centro, è molto bello, tra l'altro una bellissima piazzetta, ed è un grande punto importante della città, e quindi un amico mi raccontò che, siccome suo fratello non riusciva ad avere figli, la moglie aveva fatto un voto al santuario della Consolata dicendo se fosse nata una bambina l'avrebbe chiamata Consolata, e questa bambina è nata, è stata chiamata Consolata. Mi era sembrata una cosa un po' cattiva chiamarla con un nome così difficile, però poi mi è tornato in mente per il libro, ho detto: non può che chiamarsi così la mia protagonista. Questo è il suo primo romanzo, lei già appunto lavora come sceneggiatrice, quindi insomma un po' nel mondo editoriale, diciamo così, un po' tangente. Come è arrivata la pubblicazione di questo libro? Io sono stata molto fortunata, nel senso che appunto essendo tangenziale al mondo dell'editoria ho amici che hanno scritto libri, che quindi mi hanno consigliata, e quando avevo già scritto soltanto 80 pagine ho trovato subito un editore che era molto entusiasta, e quindi poi è stato più semplice finire. Quindi non ha preso un agente, è andata direttamente? Sì, ho preso un agente, lui ha letto queste 100 pagine, ha detto questo libro si può vendere bene, se ne è occupato lui, e nel giro di 2 settimane inaspettatamente avevo un contratto. Adesso pensa già al secondo romanzo, pensa che questa cosa sia episodica, ecco. No, penso al secondo romanzo, perché mi è piaciuto moltissimo scrivere questo, mi piacerebbe raccontare ancora di Consolata, adesso ci sto pensando. Un personaggio seriale ciclit, magari una nuova serie televisiva. Grazie ad Anna Mittone, autrice di Quasi quasi mi innamoro, pubblicato da PM. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.